Il punto di Stefano Folli. Non sarà sulle preferenze che potrà nascere una riforma elettorale seria intorno all'asse Renzi-5 Stelle. Non sarà su questo strumento, in passato fonte di mille distorsioni, che rinascerà un rapporto diretto fra i cittadini e i candidati al Parlamento. Il tema affiorato ieri appartiene al novero dei segnali politici più che alle ipotesi concrete. Sta di fatto però che il colloquio del Premier, in questo caso del segretario del PD con i 5 Stelle, è servito a entrambi. Il primo ha dimostrato una disponibilità che è comunque utile a futura memoria. Il secondo, cioè il grillo assente ma incombente, può accreditarsi come partecipe anche lui alla partita delle riforme dopo tanto tempo passato a inveire dalla piazza contro il palazzo. Ma le riforme, compresa la legge elettorale, si faranno o non si faranno a seconda che il patto con il centrodestra, Forza Italia più Lega, tenga o meno. E allora l'incontro trasmesso sul web è soprattutto un monito ai vari contraenti dell'accordo, ma anche a quanti mugugnano all'interno del PD. Vuole essere un'astuzia del Premier intorno a un tavolo in cui tutti vogliono essere astuti.